fa, io ti vorrei. Abituato a partire dal fondo, sono il migliore ad arrivare secondo. E questo non è il mio posto, dici non ti riconosco. E ci è mancato poco, questa è benzina ed io mi do fuoco. Fake it up.